Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera dedichiamo il nostro programma ai libri di un grande economista, un economista che è scomparso nel 2000, Carlo Maria Cipolla, e l'editore Il Molino ripropone una serie di libri di storia dell'economia di cui Cipolla è stato maestro. Uno di questi libri è Il Fiorino e il Quattrino, la politica monetaria a Firenze nel 1300. L'introduzione a questo libro è stata scritta da Marcello De Cecco. Buonasera, professor De Cecco. Buonasera. Marcello De Cecco è uno dei più noti economisti italiani, è professore emerito della Scuola Normale di Pisa, collabora regolarmente con il quotidiano La Repubblica e è stato un allievo, possiamo dire così, professor De Cecco, di Carlo Maria Cipolla? Ma quello sarebbe troppo dirlo, sarebbe perché io l'ho conosciuto quando ero già docente, quindi io sono stato un grande amico e un beneficato, come dico nell'introduzione al libro, del professor Cipolla e a Leo, nel senso che avendolo ascoltato per numerosi anni ho imparato un sacco di cose. Ecco, un'introduzione che lei ha scritto con molto affetto verso Carlo Maria Cipolla, che ricordiamo è stato anche, finché ha potuto, collaboratore delle pagine domenicali del Sole 24 Ore e che in questi libri ha messo molta della sua non solo scienza e conoscenza dell'economia, ma anche che il suo saperla raccontare con distacco, con ironia, con profondità. Lei in questa introduzione sottolinea questi caratteri dei libri di Carlo Maria Cipolla, un carattere appunto che fa restare questi libri ancora di stretta attualità. Ma sì, perché innanzitutto parlano di storia e quindi la storia trova analogie dovunque. Poi perché Carlo aveva, come dico sempre in quella introduzione, il coraggio di non credere nella non confrontabilità tra le epoche e coloro che le abitavano. C'è la confrontabilità delle persone tra l'impero romano e adesso, gli sembrava del tutto possibile, lo sembra anche a me, era più un economista che uno storico economico di quelli antropologizzanti, e ciò nonostante era talmente eminente che perfino sulla rivista Principe a quei tempi di quella scuola, e che sono Les Annales francese, insomma gli hanno pubblicato una quantità di articoli perché era uno dei migliori studiosi di quei tempi e anche in generale. Ecco, uno dei più attenti osservatori, uno dei più acuti osservatori, è molto noto per il suo piccolissimo libro che allego ma non troppo, Le leggi fondamentali della stupidità umana, che ha avuto innumerevoli traduzioni e innumerevoli edizioni. Ecco, lei cita peraltro questo libro anche nella sua introduzione dicendo, quella che è una delle leggi fondamentali citate da Cipolla, che gli stupidi sono dappertutto e questo libro però non è dedicato agli stupidi, ma coloro che sono intelligenti e quindi coloro che sanno riconoscere come e perché la storia può essere maestra di vita. Ecco, andando un po' nel merito di questo libro, forse la storia insegna un po' poco a livello economico. Ma io direi che per quanto riguarda proprio questo libro ci sono dei confronti importanti tra appunto la crisi del 300 e il periodo che la precede e la crisi attuale, quella di quando ha scritto Cipolla il suo libro, che era 1981-82, tempo di un'altra crisi, quando appunto abbiamo coinciso a Berkeley e discutevamo di queste cose in un seminario in cui in effetti si parlava proprio del suo libro. Sono crisi internazionali finanziarie e reali nelle quali si vede già da allora l'economia mondo, che è appunto la capacità da parte degli storici, e anche degli storici economici in particolare, quelli bravi, di vedere le interconnessioni tra i vari paesi del mondo e tra i vari prodotti del mondo e anche i sistemi monetari e finanziari dell'intero mondo, alcuni più collegati, altri meno collegati, ma considerare sistemi chiusi, le repubbliche italiane o anche stati come la Francia o la Spagna o l'Inghilterra sarebbe a quei tempi già un errore, come si vede bene da quel che si racconta nel libro di Cipolla, di cui però la caratteristica principale è quella di vedere come funziona un sistema monetario di quei tempi che l'abilità di Cipolla consiste nel far vedere che, a prescindere, oltre il fatto che fa questo sistema è fatto di monete, di metallo, certo, oro e argento, pieno titolo di valore di metallo prezioso, altre invece di metallo vile, che sono le monete, diciamo, piccole, e i rapporti tra le monete grandi e le monete piccole, tutto questo intero del sistema finanziario, sistema monetario, Cipolla lo compone, lo scompone da pari suo, analizzandolo nelle componenti appunto più importanti, come appunto la creazione monetaria, facendo vedere come questa è rilevante anche se del tutto materiale, cioè non ci sono rapporti dematerializzati finanziari, e specialmente la parte che collega, si analizza i collegamenti tra la creazione di moneta a pieno titolo, cioè delle monete importanti, e quella delle monete, diciamo, di circolazione bassa, cioè che avevano un valore intrinseco basso e quindi un valore unitario basso e oscillante, e sia qualcosa che ci vuole analizzare talmente bene che poi è stato ripreso tel quel da un libro che parla proprio di questo argomento, scritto da uno dei premi Nobel del dopoguerra, di economia del dopoguerra, che apparteneva a persuasioni, diciamo, economiche assai lontane da quella di Cipolla. Quindi, ecco, indubbiamente, come lei dice, Cipolla ricostruisce minuziosamente proprio tutti i rapporti che stavano alla base della creazione monetaria, del valore della moneta a quell'epoca, che però sono rapporti che sono, diciamo, universali, che valgono ancora adesso, per capire proprio la politica monetaria, per capire come si stabilisce il valore di una moneta. E anche se ovviamente allora la circolazione era più limitata, però era già allora una circolazione internazionale. I fattori che hanno portato alla crisi del 300 della realtà fiorentina sono fattori innanzitutto internazionali, a cui poi, spiega Cipolla, sono collegati anche fattori interni e anche congiunzioni astrali sfavorevoli, come per esempio la siccità e la scarsità dei raccolti. Ma c'è anche, proprio per attualizzare questo tema, e lei lo sottolinea nell'introduzione, il ruolo che Cipolla riserva alle istituzioni, e questo è anche una riflessione, mi sembra, molto importante per spiegare l'attualità di questo libro, che ricordo è Il Fiorino e il Quattrino. Certo, le istituzioni sono messe al centro dell'analisi, come devono essere, perché sono una creazione umana e sono in divenire, non è che rimangono ferme sempre, e che però determinano anche i comportamenti sia dei singoli che degli interi paesi, e poi determinano anche una cosa a cui tiene molto Cipolla, cioè l'analisi della situazione di un contesto, guardando il dissidio, il contrasto tra debitori e creditori, e questo è un qualcosa che nell'analisi monetaria è fondamentale. Infatti Keynes lo riprese enormemente, non da Cipolla, ma insomma, certo, se ne occupò moltissimo, prendendo lo stesso atteggiamento, cioè chi ci perde e chi ci guadagna, e di solito si contrappongono appunto debitori e creditori. I creditori essenzialmente sono a favore della moneta forte e della moneta anche abbastanza stabile, e i debitori invece il contrario. Certo, ecco, proprio per attualizzare questo tema possiamo dire che adesso tutti gli elementi che c'erano, pur se in diversa scala, pur se in diversa gradazione, nella Firenze, nell'Italia del 300, ci sono ancora. Speriamo unicamente che non ci sia più la peste, l'epidemia di peste che segnò il culmine appunto della crisi di Firenze di quegli anni. Certo, il discorso è però, se posso permettermi, la superiorità intrinseca dal punto di vista della capacità di capire come va l'economia del proprio paese, come vanno i rapporti economici del proprio paese, dei fiorentini di quel tempo, che l'hanno esaminata non solo Cipolla ma anche altri grossi studiosi della Firenze 300-400. Questa è gente che è difficile imbrogliare, cioè sono tutti persone che si occupano di commercio in un modo o in un altro, perlomeno molti, e quindi è molto difficile fargli credere alle illusioni monetarie e alle cose che cadono dall'alto senza che questi reagiscano immediatamente. Questo è uno dei problemi di chi gestisce la politica monetaria, anche i rapporti monetari e creditizi in quel tipo di contesto, che però è molto piccolo. Certo. Cioè c'ha degli enormi rapporti con tutto il mondo, come tutti sappiamo, però si tratta, per modo di dire, di poca gente, e questi qui si conoscono tra loro e sono tutti, come si dimostra non in questo libro di cui stiamo parlando, ma in altre analisi di altri studiosi, si dimostra come siano coscienti della gran parte dei rapporti commerciali, monetari e creditizi più comuni ma anche meno comuni, perché per esempio si sa che Giotto era uno che faceva il noleggiatore di telai, adoperava i propri guadagni per fare il noleggiatore di telai da tessitura. Grazie professor De Cecco di questo ricordo della Firenze del 300, della storia economica. Abbiamo parlato del libro Il Fiorino e il Quattrino di Carlo Bria Cipolla, che l'editore Il Mulino ha rieditato, libro appunto, ricordava il professor De Cecco, scritto da Cipolla nel 1980, ma che rimane di stretta attualità. Ricordo anche altri titoli in questa collana, sempre di storia economica, di cui Carlo Maria Cipolla era stato maestro: Cristofano e la peste, I Pidocchi e il Granduca, Uomini, tecniche, economie. Ma stasera abbiamo approfondito questo tema, Il Fiorino e il Quattrino, la politica monetaria a Firenze del 1300. Ne abbiamo parlato con il professor Marcello De Cecco, professore emerito della Scuola Normale di Pisa, economista, collaboratore con Quotidiano della Repubblica, che ha scritto la prefazione di questo libro. Questo libro è edito, ricordo, dal Mulino, sono 12 euro per 140 pagine. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie professor De Cecco e buona serata a tutti.